87.9 in modulazione di frequenza, questa è Prove Tecniche di Trasmissione, come ogni mercoledì e quindi anche oggi, 15 marzo del 2017. Il contatto telefonico di questa emittente è lo 06 49 1750, il sito internet è www.ondarossa.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming e quindi con un computer. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda la possibilità di sentire il podcast, di leggere la playlist di questo programma, c'è la pagina Facebook che è Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Salutiamo intanto Like Awake e Tenente Dan qui da Roma, Giovanni da Bari, Alessandra qui da Roma. Vi ricordo inoltre che alle 22.30 ci sarà 25 o'clock che andrà avanti e concluderà la giornata fino a circa mezzanotte e mezza, l'una. Andiamo anche a salutare la Nesplay Sounds, questo gruppo di appassionati di sonorità sperimentali, di elettronica e di industrial. Un gruppo di ascolto ideato dal buon Raffaele Pezzella, spesso menzionato in questo spazio, e stasera lo miniamo e lo celebriamo, diciamo, approfittando di anche del suo progetto come musicista che porta il nome di Sonologist. E quindi ci andiamo ad ascoltare proprio un lavoro del 2015 che porta questo nome, An Express Sounds, un lavoro che si apre con Unknown Sound in Finland e poi la terza traccia dal nome Around Vancouver. Thank you. Sonologist. Sonologist di Riccardo Pezzella. Si chiama Nestle Sound, questo primissimo lavoro, questo lavoro del 2015 per quanto riguarda il buon Raffaele Pezzella. Un album che andremo a ascoltare anche nelle prossime settimane. Un approccio ritualistico, anche se in realtà i campioni sono estratti anche, per esempio, da segnali provenienti dallo spazio, dal canale YouTube ed altri elementi apparentemente in contrasto tra di loro, ma che sono armonizzati in maniera eccellente. Intanto andiamo a salutare una serie di persone che si sono connesse nel frattempo, ossia Alessio da qui da Roma, Antonella dalla Sicilia, Marlino Stancati dalla Calabria, Riccardo Martucci da Taranto. Ed è proprio lui in questo momento che ci stiamo ascoltando attraverso il suo progetto Diaspora Psichica. Questo secondo lavoro si chiama EPROM, scaricabile free download da Backcamp ovviamente, un secondo lavoro molto interessante che ricalca in un certo senso per la maggior parte le orme del primo lavoro, e si apre con questa transmission seguita da Equilibrium, eccolo qua, Diaspora Psichica. Thank you. ancora diaspora psichica. Ancora da questo. Eccolo qua. Stasera abbiamo qualche problemino tecnico, abbiamo un mixer un po' impazzito. Dicevo, eccolo qua dunque, diaspora psichica, ancora una traccia che giustamente, come dice il buon Maurizio Pustianaz, che salutiamo, in arte Garstein, ci può anche ricordare il buon Lastmord, e credo che Riccardo Martucci stesso sia d'accordo. Ci lasciamo dunque da parte le suggestioni di diaspora psichica. Da questo suo secondo lavoro, dal nome Eprom, per questo artista Riccardo Martucci, proveniente da Taranto. Insieme a Francesco Maggi, questo duo proveniente dal Sud Italia, dalla Puglia. E noi si va avanti, cambiamo storia, andiamo negli Stati Uniti. controverso Boyd Rice, il controverso Non da questo Might, un vecchio lavoro del 1995. Qui le atmosfere si fanno meno dilatate e più cariche di pathos. Ci ascolteremo Warring Atoms e Non Nirvana da questo Might. Non. Some butcher shop where slain men hang in rows. This old earth is strewn with dead on top. With the fleshless skulls and rainbow bones, combat and smear, countless myriads. Every square foot, every inch of soil contains its man. Skyward or hellward, man moves on and on. If there are barricades in his way, he must surmount them or blast them aside. If there are wild beasts ready to spring upon him, he must destroy them. They will destroy him. The high road leads through hell. Those infernos must be besieged, taken possession of. Even if the present monarchs have to be rooted out with weapons, demonic and rooted out their own. This world is too peaceful, too acquiescent. This world is too tasteful. Who is a circumcised world? Too tame. A castrated world. Is a circumcised world. Must be made fiercer. A castrated world. Before it can become grander. Must be made fiercer. And more natural. Before it can become grander. Terror. And better. Torture. And more natural. Agony. And the wholesale destruction. Torture. And worn out types. Agony. Must mark in future. And wholesale destruction. And feeble and worn out types. Every step forward. Must mark in the future. As in the past, soil, every step forwards in the ring, or backward in evolution, or among the most vigorous soil of every nation is an arena, a stomping ground. What is all history? Where only the most vigorous animals lost in a hope to hold their own. The final army, what is all history? Is never likely to be the epic of a colossal game. As when men cease to fight, the final army ceases to inch, is never likely to be fought. The normal man ceases to fight. They cease to eat, and fight, and hunt. The normal man is the man that loves, and feasts. The abnormal man fights, and hunts, for a master. The predatory man, and thinks. The abnormal man is priceless toils, for a master. The first is a perfect dog, and the second, a perfect monster dog. The first is a perfect animal, the second, a perfect monster. The flow of destruction is as natural. Destroy the evolution of the flow of water. Or prevent the shedding of life. Human ingenuity can destroy the emulation of man. Majestic nature can prevent the shedding of life. Tragic way, and why should it? Caring not for the way majestic nature continues under tragic way. Of the protests of defeat. Caring not for the wails of the agonized and panic stricken. Proudly for the protests of this hurrah. Smiling sadly, and sword proudly, the victor's fears of tradition, the crunching of bones, arriving sword, the flap of shredded, the ringing of traditions, the crunching of bones, the flap of shredded, the sharp torn banners, over the battle weary, the mangled dying, the day, over the battle dead, the mangled dying, Christ may come, and dead, and Christ may go, Christ may come, but Caesar lives Christ forever. May go. But Caesar lives forever. E sopra le declamazioni di Non di Boyd Rice, andiamo a salutare Gabriel Edvi from London, da Londra, e anche Fabio FK Dron, e di nuovo Alessandra qui di Roma. Artista che insieme ad altri, Carnera, Teatro Satanico eccetera, suoneranno il 29 aprile a Bologna nel congresso post-industriale, un appuntamento ormai storico per chi mastica un certo tipo di suono e di attitudine musicale, come ci ricorda Gunnstein. E intanto sono le 21:32 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il programma è Prove Tecniche di Trasmissione, in onda fino al 22:30, poi ci sarà 25 o'clock. Ricordo ancora una volta il sito, che è www.ondarossa.info, per ascoltarci anche attraverso lo streaming, adesso abbastanza frequentato, ma c'è anche lo storico telefono, che è lo 06 49 1750. Stasera avremo anche dei grossi calibri in playlist, diciamo leggermente più celebri di altri che manderemo, che abbiamo mandato, per esempio Esplendor Geometrico, quelli che ci stiamo per ascoltare. Anche per loro è uscito un ultimissimo e interessantissimo lavoro dal nome Fluida Meccanico, attraverso la loro etichetta, anche questa storica, la Geometric. Questa sera è il turno di Vermoktruo e Objettiva, due tracce per Esplendor Geometrico. Ancora splendor geometrico da questo Fluida Meccanica, salutiamo Stefania in quel di Berlino. Peraltro una fan accannita come me di questo progetto storico spagnolo. Thank you. Mi sembra evidente e mi sembra giusto sottolineare l'abilità ritmica di questi splendor geometrico di Arturo Lanz e Saverio Evangelista. Questa è l'attuale formazione, ormai un duo da molti anni. Intanto un ritorno gradito, Eleonora in questo momento residente in quel di Dublino in compagnia di un buon libro e del vino rosso e con prove tecniche di trasmissione in sottofondo, quindi la ringraziamo ovviamente di questo accostamento. Ci chiedono Siamgda, una sorta di, qualcuno se lo ricorderà, ma Life in the Bush of Ghost di Brian Eno e David Byrne, uno dei primi esempi di crossover etnico elettronico, e Siamgda in un certo senso, oltre a quel riferimento, ha anche un riferimento tipo Muslim Ghost, lo abbiamo ascoltato per molto tempo e quindi per adesso lo mettiamo a riposo. Dicevamo dell'elemento tribale e percussivo di Splendor Geometrico. Ebbene, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro progetto storico che vede nelle percussioni, nell'approccio ritmico percussivo, un elemento fondante. Sto parlando dei Test Department, recentemente tornati sotto la denominazione Test Department, Test Depth Redux, tanto per essere più precisi. Test Depth, che a livello discografico hanno finito nel 1998 con Tactics for Evolution, un album elettronico che uscì per la KK di Anversa, etichetta belga, e in questo nuovo formato con due vecchi elementi più parecchi giovani, nuovi soprattutto percussionisti. Per adesso non ha sfornato un album, anche se so che è in preparazione. Test Department, dalla forte valenza politica, ricordo anche lo splendido Shoulder to Shoulder, un album ideato e cantato insieme ai minatori nella antica e vecchia lotta contro Margaret Thatcher negli anni '80. Qui invece abbiamo un live che risale al 1990, un live che si tenne a Montreal in Canada. L'album si chiama Proven in Action e ci ascoltiamo Jerusalem e Sig. come si può intuire, anzi appurare, un intenso live, questo vecchio live del 90 per Test Department. Questo Proving in Action uscito nel 91. Peraltro nella nuova versione Redux ho avuto anche il piacere di vederli l'anno scorso, e ne stiamo parlando qui in rete con il buon Maurizio Pustinaz e Gabriel Edvi. Ebbi il piacere di vederlo al Wave Gothic Treffen in maggio e alla Machine FS sempre in Germania in ottobre, due performance eccellenti che ce li hanno restituiti in ottimissima forma, scusate l'ottimissima, ma quando ci vuole ci vuole. Un gruppo che sa sempre emozionare e sollevare tanto entusiasmo anche in questo momento e in me da quando li conosco. Speriamo a questo punto, come dicevo prima, finalmente in un nuovo lavoro. Quindi da un pezzo di storia torniamo invece a una artista, diciamo, abbastanza emergente, anche se ormai affermata. Lei è Pussy Mary. Pussy Mary che andiamo qui ad ascoltare in un lavoro dal nome Persona, un lavoro del 2014, sempre attraverso la danese Posh Isolation. Sta per partire The Viewer, una lunga traccia per quanto riguarda Pussy Mary.